Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su Controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Big leg woman, keep your dresses down. You've got some makeup bulldog, hug a hound. Big leg woman. Buongiorno, buongiorno, è domenica 24 novembre 2013, è la 129esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Ma dobbiamo menzionare anche Francesco Azzurri alla parte tecnica e la consulenza musicale di Lorenzo Ranfagni e Giona Vinti. Ecco un'anticipazione della puntata che state per ascoltare. Per la rubrica Visti da vicino di oggi andrà in onda la seconda parte dell'intervista al professor De Marco, realizzata durante una lunga visita al Parco dell'Abatino, un santuario rifugio pieno di animali incredibili che noi riteniamo interessantissimo. Le voci animali intercettate dal nostro microfono in sottofondo anticipano tutti quegli incontri con queste creature che vi racconteremo nelle prossime puntate. Per la rubrica di attualità Animal House, la nostra corrispondente da Milano, Roberta Marino, ha raccolto voci e testimonianze dalla recente manifestazione contro l'allevamento di cavie e conigli di proprietà di Giuseppe Bettinardi, fornitore dell'industria della vivisezione. La sottoscritta poi vi presenterà l'evento Eleganza del Cuore, un evento girovago ideato da attivisti di Bergamo e Milano che aspira a venire convocato in molte città italiane per portare la proposta di un abbigliamento cruelty free. Per la rubrica Il Pasto Gentile, il nostro chef Gabriele Palloni ci descriverà i passaggi per realizzare un goloso pesto a base di un ortaggio di stagione. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Amigos extranjeros van a alucinar. Seconda puntata dell'incontro con il professor De Marco, che presiede il Parco dell'Abatino, un santuario rifugio che siamo stati a visitare in provincia di Rieti e che ospita moltissimi animali recuperati da sequestri, dalla vivisezione e da altre situazioni limite. La chiacchierata è stata molto lunga, l'abbiamo quindi spezzata in più puntate. Questa è la seconda. Il professor De Marco stavolta ci parla del crescente bisogno di santuari e rifugi che c'è in Italia e nel resto del mondo, della sua idea di una ampia rete di rifugi e santuari come paradigma di una nuova convivenza tra l'uomo e gli altri animali sottratta alla logica del profitto e dei costi della struttura dell'Abatino, dei modi in cui questa struttura si finanzia, e conclude parlandoci di questa relazione tra scienza ed empatia che si spera oggi si stia capovolgendo finalmente. Qual è l'estensione di questo centro? Sono 10 ettari circa. Attualmente la maggior parte delle strutture è disposta su 4 ettari, quindi 6 ettari sono ancora disponibili. C'è una richiesta a cui non possiamo molte volte rispondere perché non ce la facciamo. Questi problemi, sia come santuario che come centro di recupero, tendono insomma non a diminuire, ma almeno la nostra sensazione. Noi all'inizio, negli anni passati, avevamo delle richieste, degli arrivi che erano relativamente modesti rispetto a quello che avviene oggi. Adesso diciamo che, non dico tutti i giorni, ma durante la settimana, una, due, tre volte a settimana, arriva qualche animale in recupero. Un grosso lavoro viene fatto nella collaborazione che abbiamo col Corpo Forestale dello Stato, in particolare per quanto riguarda l'area nostra, quindi diciamo la provincia di Rieti, e la forestale che si fa carico più delle volte del recupero di questi animali e che poi quindi ci riporta. Poi noi parliamo in questo caso del centro, quindi animali che poi vengono rilasciati, quelli che sono riusciti a recuperare. Per quanto riguarda gli altri tipi di animali, quelli cui si fa il capo al santuario, l'impegno è andato aumentando negli anni, abbiamo vari progetti che ci piacerebbe portare avanti, non mancano le difficoltà. Uno di questi è la possibilità di dare ospitalità, in particolare ai primati che provengono dalla sperimentazione. Questo è un progetto che vorremmo portare avanti, che stiamo portando avanti con la LAV, con difficoltà di varia natura, sia di natura economica sia di natura burocratica. È un'impresa non facile. Fin dall'inizio noi abbiamo sottolineato l'importanza anche che un centro di recupero, un santuario, una struttura debba anche in qualche modo partecipare al dibattito più generale che riguarda questo tema generale, che tra l'altro fa parte dello nostro statuto, è quello di indicare, immaginare quali sono le possibili strade che permettono la convivenza tra l'uomo e gli altri animali, direi. Questo è un tema molto, molto difficile, è una strada che va tentata nel momento in cui la presenza umana è sempre più massiccia, lo diventerà nei prossimi anni e sempre più avremo popolazioni a rischio. Noi vorremmo poter rappresentare come una struttura che in qualche modo non ha grossi investimenti, non è un investimento chiaramente, ma insomma non può dedicare un altro delle somme economiche notevoli da poter investire in quest'opera e che comunque cammina in maniera quasi familiare. Ecco, potrebbe essere un piccolo nucleo, se questi nuclei si potessero moltiplicare può forse rappresentare una delle strade per dare ospitalità a queste popolazioni animali che nel futuro sicuramente avranno bisogno di questo riparo. Altrimenti dobbiamo tutto affidare ad iniziative fatte da multinazionali, grossi investimenti, però è anche una scommessa, perché il grosso investimento presuppone anche, a meno che non venga fatto da una struttura pubblica, anche una grossa ricatura in termini di ritorno. Il discorso su cui si muove una Ollus è completamente diverso, non presuppone un ritorno economico, anzi presuppone che non ci sia questo. Quindi da questo punto di vista può essere tentativo, un'indicazione. Che bilancio ha questa struttura qua? Quanto costa? Come raccogliete i fondi che vi servono? I costi si aggirano intorno attualmente sui 120-130 mila euro l'anno, però questi costi, che sono relativamente bassi rispetto al numero degli animali presenti, è dovuto al fatto che viene fatto tutto in maniera artigianale, quindi abbiamo un abbattimento dei costi da questo punto di vista. Pochissimi, devo dire, fondi ci vengono dal 5 per mille, dei contributi ci vengono dalle associazioni, cioè un contributo ce l'ha dato la LAB, un altro ce l'ha dato Vita da Cani, abbiamo ospitato delle scimmie che loro hanno recuperato, parte consistente ci viene da questi progetti di ricerca etologica sulla studio del comportamento. Naturalmente queste attività di ricerca che noi permettiamo all'interno della struttura sono proprio per statuto molto vincolati, nel senso che non devono assolutamente intaccare o compromettere la vita degli animali. Molte linee di ricerca si muovono su questo e quindi io da questo punto di vista mi sento anche abbastanza ottimista, nel senso che credo che nel futuro sempre meno sentiremo parlare di una sperimentazione animale che nel passato, diciamo, ha calpestato, non ha tenuto per niente conto della sensibilità, perché addirittura presumeva che questa sensibilità non ci fosse. La stessa ricerca ci ha dimostrato invece che gli animali, molti animali, soprattutto quelli a complessità sociale o comunque neurologica, questa sensibilità ce l'hanno, che l'empatia non è una caratteristica solo umana, ma è una caratteristica che è condivisa da tantissime altre specie. E quindi proprio questa consapevolezza che ci viene dalla ricerca scientifica oggi ci deve spingere a superare quel tipo di sperimentazione che mi pare che nella sensibilità di sempre più persone sono inaccettabili. Io mi chiedo se la scienza abbia sviluppato questa empatia verso gli altri viventi, oppure se non abbia un atteggiamento opposto, cioè ritenga che tale empatia non è da autentico scienziato, da autentico uomo di scienza. Sì, questo in parte è vero. Credo che da questo punto di vista è un terreno da conquistare e che il ruolo delle associazioni, dei movimenti, sia proprio quello di continuamente stimolare e rafforzare questa sensibilità. È vero, molte volte nelle istituzioni il rapporto con gli animali, con la materia che molte volte queste istituzioni devono in qualche modo governare o tutelare o su cui si legifera, vengono viste come degli oggetti, sono delle entità burocratizzate, quindi da questo punto di vista sono delle caselle da riempire, quindi è tutto da venire, quel discorso sull'empatia che si faceva prima, tutto da costruire. però esistono anche delle realtà in cui mi pare che queste sensibilità a livello individuale, come sempre succede in molte strutture, sono presenti e che possono tutto sommato esprimere se si creeranno le condizioni. Io conosco delle persone, per esempio, che hanno delle sensibilità molto forti all'interno di strutture pubbliche, non so, di un ministero, però stranamente a queste persone non viene dato mai il compito di occuparsi di un settore in cui queste loro caratteristiche potrebbero essere espresse, si mettono a fare altre cose. Mi è capitato, e anche a noi addirittura come banco è capitato, su richiesta di alcune strutture di ricerca, di ospitare animali che venivano dai ricercatori stessi sottratti a quello che era un iter burocratico che ne prevedeva, per esempio, l'uccisione. Notizie, interviste, attualità. Siamo qua anche per continuare a tenere alta in qualche modo l'attenzione su quanto riguarda tutto il commercio delle cavie da laboratorio, sullo sfruttamento animale, che non riguarda solo il mondo della sperimentazione animale, ma riguarda un po' tutti i campi della vita quotidiana. Sabato 16 novembre siamo ad Alzate di Momo, in provincia di Novara, dove recentemente è stato scoperto un allevamento di cavie di porcellini d'India e di conigli destinati ai laboratori di vivisezione. Chiediamo a Sara del coordinamento fermate Green Hill come è stato scoperto questo allevamento. Dopo l'occupazione del Dipartimento di Farmacologia avevamo visto che risultava dalle bolle un fornitore che era in questa zona, ed era un fornitore ancora non censito e non noto. Poi il 5 di settembre c'è stata questa grandiosa liberazione che ha portato in salvo tutti i 407 porcellini d'India che erano detenuti all'interno dell'allevamento. Liberazione firmata, sigla Fronte Liberazione degli Animali. Quindi questo è stato in un certo senso smascherare ulteriormente, abbattere ulteriormente il muro di silenzio dietro al quale continuano ad operare i vari allevamenti che forniscono le ditte, i laboratori pubblici e privati di animali da laboratorio e i laboratori stessi. Questo è l'ultimo degli allevamenti a conduzione familiare in Italia, quindi Morini era quello ultimo. Tutti gli altri ormai sono soltanto allevamenti di multinazionali, di grandi colossi. Questo invece è una piccola cascina, sembra quasi impossibile che lì dentro, in quei capanni, tenga prigioniere così tante centinaia di vite. E voi sapete quanti animali ci sono? Esattamente no, però i porcellini d'India risulta essere stati portati in salvo tutti, anche se loro ritenevano che ce ne fossero 800. Conigli sono varie centinaia, non sappiamo il numero con esattezza, non sappiamo neanche, adesso proveremo anche ad approfondire meglio, anche registri di carico, scarico, capienza dell'allevamento, cercheremo come sempre dopo le azioni dell'ALF, si riesce magari a trovare un appiglio e verificare che ci siano anche altre cose che non vanno, oltre il discorso etico, che ovviamente anche fosse tutto a norma non saremmo d'accordo. La campagna come intende proseguire, dal momento che comunque la campagna nei confronti di Green Hill è stata diversa rispetto a quella di Morini, qua si parla anche qui di un allevamento familiare, conduzione familiare, sarà una campagna di tipo diverso? Ma allora adesso sicuramente, una volta dopo la liberazione, abbiamo pensato come prima cosa di rendere nota a tutta la popolazione che cosa fosse, in cosa consistesse il commercio della famiglia, che è quello che avevamo fatto anche con Morini precedentemente. Adesso cercheremo di capire come e quali possano essere le strategie utili per arrivare davvero alla chiusura di questo, che è un allevamento minuscolo, quindi un allevamento che vogliamo vedere al più presto chiuso. This is a public service announcement with guitar. Danza del Cuore, questo è il titolo di un evento per la scelta consapevole di un abbigliamento cruelty free. Ne parliamo con Valentina, che è un'attivista volontaria che fa parte di un gruppo di amici di Bergamo e Milano impegnati a portare in giro per l'Italia questo evento, che è originale perché non si limita a denunciare la violenza delle pellicce, degli inserti di pelliccia, ma in più promuove anche quelle aziende che producono capi cruelty free per dimostrare che l'alternativa è praticabile da subito a costi ragionevoli. Valentina, com'è strutturato l'evento Eleganza del Cuore? Una prima parte un po' informativa, magari fatta un po' scenograficamente, su cosa comporta il produrre pelo di animale. Poi una seconda parte con una sfilata vera e propria di noi volontari, di qualsiasi età e taglia, questo lo voglio sottolineare. Cioè noi siamo il pubblico praticamente, noi sfiliamo per il pubblico, ma siamo anche, rappresentiamo il pubblico. Perché è il pubblico che deve comprare le alternative. È molto carino, sì, e piace, perché lo facciamo nelle piazze, lo facciamo a portata di tutti. Questo gruppo non si è costituito in associazione proprio perché ritiene giusto che gli eventi Eleganza del Cuore girino per l'Italia, venendo ospitati e promossi sul territorio dalle associazioni di attivisti residenti e radicati in quel luogo. Noi, non essendo un'associazione, ovunque ci ospitano collaboriamo con o associazioni o attivisti del posto, naturalmente, perché è giusto così. Valentina e gli altri ci mettono quindi la loro creatività, il loro tempo e il loro talento. Si spostano volentieri in Italia dove vengono invitati. È sufficiente che l'associazione che li invita ci metta un luogo pubblico adatto, un telone per proiettare il video e la voglia di parlare di un argomento, l'abbigliamento violento e la sua alternativa cruelty free, che troppo spesso passa in sordina rispetto al tema dell'alimentazione. Valentina, come reagisce il pubblico? La maggior parte delle persone lo sa, l'informazione se ne sta facendo da tantissimi anni, quindi sanno cosa comporta fabbricare qualsiasi cosa che abbia pelo di animale. Più che altro la gente lo fa per inerzia, tante volte si compra il giaccone e non ci guarda neanche se l'inserto sia vero o no. Non c'è una scusante per comprare qualsiasi cosa che abbia pelo di animale. Noi possiamo chiederlo e loro rispondono perché non mi interessa oppure perché non lo sapevo. Quindi non c'è molto da dire, non c'è più molto da dire. Puntiamo molto sul dire guardate che c'è un'alternativa valida, concreta e alla portata di tutti. Che bella anche. La prima data di Eleganza del Cuore è stato il 15 settembre a Milano in corso Monforte con il patrocinio della provincia di Milano. La seconda data sarà a Parma l'8 dicembre. Ci dai qualche dettaglio, Valentina? Sarà in Piazza Ghiaia alle 15:30. Ci sono 1000 città che potenzialmente potrebbero ospitare questo evento, particolarmente adatto al periodo di shopping pre-natalizio. Chi fosse interessato può contattare Valentina e gli altri scrivendo all'indirizzo eleganza del cuore, tutto attaccato, @gmail.com. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Oggi facciamo una salsa per la pasta. Facciamo un bel pesto di bietole, nocciole e panna di soia. Così impariamo anche a fare la panna di soia. Questo è il periodo dei cavoli, cavolo nero, cavolo verza, ma anche delle bietole. Allora, sempre gli ingredienti per 4 persone circa, 400 g di pasta a vostra scelta, 200 g di bietola, del timo, una carota, una cipolla bianca o un cipollotto fresco, un gambo di sedano, uno spicchio d'aglio, 100 g circa di nocciole tostate senza buccia, 50 ml di latte di soia, 100 ml di olio di semi di girasole o di soia bio, dell'olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Iniziamo preparando un battuto con il sedano, la carota e la cipolla. Lo tritiamo e lo mettiamo in un tegame coprendolo con acqua, che lasciamo lentamente evaporare a fuoco medio fino a quando tutta l'acqua non si sarà ritirata. A questo punto uniamo un po' di olio extravergine di oliva e lo facciamo rosolare per qualche minuto. Questo ci permette di avere un battuto più leggero, lo ripeto, l'ho già detto nelle altre puntate, però ci tengo, questo ci permette di fare una cucina più leggera e anche di usare meno olio. Mentre appunto il nostro battuto cuoce, laviamo la bietola e la tagliamo a strisce grossolane, non importa, perché poi andremo a tritare tutto. Uniamo le bietole lavate e tritate nel tegame col battuto, copriamo nuovamente con l'acqua o con del brodo vegetale e lasciamo cuocere circa una ventina di minuti. A questo punto mettiamo nel bicchiere del frullatore a immersione o in un mixer o in un cutter le nocciole, lo spicchio d'aglio e il timo. Tritiamo bene per un minuto circa e uniamo le bietole cotte e tutto il fondo di cottura. Lasciamo macinare ancora per un paio di minuti aggiustando di sale e pepe e casomai aggiungendo un po' di olio se ci risulta un po' duro l'impasto. A parte, sempre in un altro bicchiere per il frullatore a immersione, mettiamo il latte di soia e l'olio di semi e lo lasciamo emulsionare per 4-5 minuti. Vediamo che piano piano comincia a montare. Non così denso come una maionese, ma molto cremoso. Appunto, questa è semplicemente della panna di soia da cucina, quella che troviamo in commercio, ma la possiamo fare in pochissimi minuti a costi molto più bassi e sicuramente avendo un prodotto, specialmente se ci facciamo il latte di soia autoprodotto come dalle prime puntate abbiamo visto come fare, anche di maggior qualità. Uniamo la panna di soia così ottenuta al pesto e intanto cuociamo la pasta, come al solito in abbondante acqua salata e, se ci piace, una cottura piuttosto al dente, lasciando sempre un bicchiere, un romaiolo di acqua calda al momento di poter saltare la pasta. Scoliamo il tutto e portiamo in tavola, appunto condendo con il nostro pesto e panna di soia, guarnendo con delle nocciole spezzettate o delle nocciole intere. Se vi foste persi ingredienti, procedimento, la ricetta intera, non vi preoccupate perché potete ritrovare tutto sul nostro blog che è restiamoanimali.wordpress.com. Quindi buon appetito e buona sperimentazione in questa cucina senza crudeltà. E aspetto i vostri feedback, se avete domande, curiosità, foto anche delle vostre prestazioni culinarie, basta mandare un'email a restiamoanimali@controradio.it. Vi aspetto domenica prossima, l'appuntamento è sempre su Controradio nella rubrica Il Pasto Gentile. Tigri di carta. Rassegna stampa altro animalista. Questa settimana torniamo a parlare del settimanale internazionale che, dopo l'inchiesta sugli allevamenti di suini in Germania ripresa da Der Spiegel, dedica nel numero 1026 un lungo articolo alla questione del vegetarismo, intitolato La compassione dei vegetariani. È un articolo scritto da Kapil Komireddy e pubblicato dal giornale Aeon del Regno Unito. Questo articolo è un ampio excursus del vegetarismo soprattutto nel mondo orientale. L'inizio però è dedicato a un autore importante, George Orwell, l'autore di Omaggio alla Catalogna, della Fattoria degli Animali, il quale mostrò di avere una serie non irrilevante di pregiudizi rispetto alla scelta animalista. Infatti l'articolo comincia così. Non è passato troppo tempo da quando George Orwell, nella Strada di Vegan Pier, definiva l'essere vegetariano un insulto alle persone per bene e un'ossessione degli eccentrici lontani dalla gente comune. Era un sintomo, pensava Orwell, di come la causa socialista fosse caduta nelle mani di, aperte virgolette, ogni bevitore di succhi di frutta, nudista, portatore di sandali, maniaco sessuale, quacquero, guaritore naturista, pacifista e femminista d'Inghilterra. Questa sparata di Orwell però non impedisce all'autore di questo articolo poi di informarci su una serie di precedenti e di punti di riferimento nel vegetarismo, nella storia soprattutto dell'Estremo Oriente. Vi leggiamo quindi un passo. Il grande imperatore cinese Wu della dinastia Liang meridionale, 1500 anni fa, espose le sue argomentazioni filosofiche sull'immoralità dello sfruttamento degli animali per assicurare il piacere degli esseri umani, esortando alla temperanza e alla clemenza. A sua volta Wu era ispirato da un imperatore indiano di Maurya, Ashoka, che dopo aver devastato la Repubblica di Kalinga, nell'India dell'Est, nel 260 a.C. attraversò una profonda crisi di coscienza. Inorridito dall'alto numero di morti provocato dal suo esercito e tormentato dal rimpianto, si convertì al buddismo, abiurò la violenza, abolì il commercio di schiavi, ma non la schiavitù, e consacrò il suo regno alla lotta contro le usanze crudeli. Le leggi di Ashoka, le prime del loro genere, estesero la protezione dello Stato agli animali vietando gli sport sanguinari e proibendo i sacrifici rituali. L'articolo, pubblicato dal numero 1026 di Internazionale, si conclude così. Gli esseri umani hanno sempre mostrato un'immensa capacità di distruzione, ma anche di moderazione e automiglioramento. Dovremmo sforzarci di temperare il nostro dominio con la pietà e la compassione. Insistere su questi principi, come fanno alcuni di noi, non significa odiare la gente comune. Significa sollecitare un esercizio più empatico della nostra autorità nella speranza che, diventando sensibile alla sofferenza degli esseri su cui ha potere di vita e di morte, l'umanità possa sfuggire alla sua primordiale propensione alla violenza. Che ne pensasse il pur grande George Orwell. L'altro articolo che vogliamo citarvi è ripreso dalla Domenica del Sole 24 Ore del 17 novembre scorso ed è un'intemerata contro chi si batte per avversare la sperimentazione animale che sembra riportare il discorso da alcuni decenni fa, ignorando il pensiero etico, morale, politico dell'animalismo e dell'antispecismo, ma anche le questioni poste ormai da un numero crescente di scienziati. Questo ovviamente articolo si intitola L'animalismo blocca la ricerca ed è firmato da Gilberto Corbellini ed Elisabetta Deiana. L'attacco ha addirittura una pretesa di analisi politica, dice così. È inutile che il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio vadano in giro per il mondo o parlino con le elite politiche ed economiche internazionali per rassicurare sull'affidabilità del sistema dell'Italia. Perché all'estero si legge e ci si documenta più che in Italia. E si sa che i parlamentari italiani hanno votato una legge sulla sperimentazione animale che taglia fuori la nostra ricerca biomedica dalla competizione internazionale. Ergo, chi ascolta i nostri rappresentanti e governanti non li può prendere più sul serio. In un altro passaggio si dice questo. È tragico e incomprensibile che il mondo politico abbia creduto alle menzogne che poche persone esaltate e in alcuni casi violente hanno sistematicamente divulgato con l'aiuto dei mezzi di informazione. Un'affermazione che lascia sinceramente stupefatti sia per il riferimento alle persone esaltate e violente, sia per l'aiuto dei mezzi di informazione che Corbellini e Deiana dovrebbero spiegare dove, quando e come hanno visto e dovrebbero forse riconoscere con tranquillità che la posizione contraria alla sperimentazione animale è sostenuta da un filone molto largo, molto importante del pensiero morale, filosofico, politico internazionale anche da correnti all'interno della scienza sempre più cospicue. Ma questo articolo sembra veramente dettato da una forte rabbia per i piccoli, peraltro, miglioramenti introdotti dalla legge italiana sulla sperimentazione animale rispetto a una direttiva europea che ci portava addirittura indietro. Comunque i due autori cercano di sostenere che la nuova legge sulla sperimentazione animale bloccherà ogni ricerca in ambito scientifico, sostenendo ad esempio che sarà impossibile sviluppare in Italia i trattamenti antitumorali personalizzati, cioè la medicina del futuro, o animali transgenici per disporre di più sicure valvole cardiache e cellule per la produzione di insulina che si possono ottenere da maiali e bovini. Ha detto che non c'è mai in questo articolo un riferimento all'obiezione etica alla sperimentazione animale che viene esclusa dalla considerazione. La fine dell'articolo è questa. La legge che in Italia snatura la direttiva europea sulla sperimentazione animale va comunque prima di tutto a danneggiare milioni di malati esistenti e futuri. Mentre non stupisce che fanatici animalisti siano contro la sperimentazione animale, lascia esterrefatti che il mondo politico si assuma la gravissima responsabilità di minare la qualità della vita futura per chi sfortunatamente dovrà continuare a vivere in questo paese. Deiana e Corbellini sono quindi inviperiti contro questa peraltro modesta correzione della direttiva e comunque noi vi invitiamo a consultare sul nostro blog sia il testo integrale di questo articolo sia una prima risposta venuta da quegli scienziati che diffidano ormai della fede nella sperimentazione animale che Corbellini e Deiana sembrano esprimere o di cui si fanno comunque portavoce. Thank you. visto l'annuncio della prossima manifestazione contro la vivisezione che si terrà sabato 30 novembre a Milano. Il 30 novembre torneremo nelle strade per testimoniare la nostra contrarietà assoluta alla vivisezione, pratica antiscientifica responsabile di un numero spaventoso di vittime umane ed animali, e per esprimere il nostro sostegno a una ricerca orientata davvero alla prevenzione e alla cura delle malattie e non alla loro cronicizzazione. Milano, la capitale finanziaria del paese, è anche la capitale della vivisezione. Nella metropoli lombarda, infatti, sono attivi alcuni dei maggiori laboratori di vivisezione e tutte le multinazionali chimico-farmaceutiche che hanno una sede in Italia. È qui che il business della vivisezione intreccia i suoi affari con quelli di altre grandi realtà economiche, grazie a un sistema di relazioni consolidato. Aziende che utilizzano il metodo vivisezionista nel settore della ricerca, nonostante ormai una porzione sempre crescente della comunità scientifica sia convinta dell'inattendibilità del modello animale. Milano quindi è il cuore della vivisezione. Per questo Animal Amnesty vi invita a partecipare sabato 30 novembre a Milano a un corteo nazionale contro la vivisezione. Il concentramento è previsto in Largo Cairoli a partire dalle ore 14. Partiranno molti pullman dall'Italia: Bologna, Modena, Parma, Torino, Ivrea, Santia, Novara, Livorno, Pisa, Viareggio, Brescia, Bergamo, Roma, Firenze e Arezzo. Se volete prenotare un posto nel pullman che parte da Arezzo, Montevarchi e poi si ferma anche a Firenze, è sufficiente mandare una mail all'indirizzo seguente, segnatevelo: GAT, cioè G come Genova, A come Ancona, T come Torino, quindi gat.trasferte@hotmail.it, indicando nome e cognome, il numero di telefonino, mi raccomando è fondamentale, e il luogo di salita. Per qualunque informazione potete chiamare il mitico Fabio Serrozzi al numero 393-183-9574. Ricordate che la partenza da Arezzo Montevarchi sarà circa le 7.30 e da Firenze Obi Hall circa le 8.30. Il costo per l'andata e il ritorno è di 24 euro. Ci vediamo domenica 30 novembre per dire no alla vivisezione a Milano. Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.